Italia in controluce. 13:33 minuti, buongiorno da Alessio Maurizi, gentili ascoltatori. L'appuntamento su Radio 24 con la cronaca, le storie che ci parlano dell'Italia in controluce. Ieri il ministro Gelmini l'ha detto chiaramente, la politica resti fuori dalla scuola e con lei anche il simbolo della Lega che si trova nella scuola di Adro, che il sindaco ha fatto mettere sui banchi, sui cestini, sui tappetini, addirittura sul tetto della scuola intitolata a Gianfranco Miglio. Ebbene, nonostante questa presa di posizione e anche altre numerose, niente è cambiato alla scuola di Adro. Perché? E poi, come la sta vivendo la comunità di questa cittadina in provincia di Brescia? Tutte domande che giriamo alla nostra inviata proprio lì, Anna Migliorati, buongiorno. Buongiorno Alessio, sì, siamo proprio qui ad Adro di fronte al polo scolastico Gianfranco Miglio. Il Sole delle Alpi qui è rimasto al suo posto, nessuno è entrato nel modernissimo polo scolastico a spostare banchi e arredi. Il sindaco di Adro si trincera dietro il no comment e anche la sua giunta è divisa sul da farsi. Certo è che al di là delle spese per cambiare volto alla scuola, i bambini in questi giorni frequentano le lezioni e non è certo possibile un trasloco. Una decisione, se mai arriverà, è più probabile nel fine settimana. Qui questa mattina è comparso per pochi minuti invece uno striscione a firma leghista. Difendiamo i nostri simboli. Striscione subito rimosso in tempo per l'uscita dei bambini da scuola. Ma questa è ormai la storia di un paese più che di una scuola. Un paese che fatica a ritrovare unità, diviso tra due scuole. A poche centinaia di metri da qui c'è chiusa la vecchia scuola elementare. Negli anni Ottanta anche lei era un simbolo, era studiata dagli esperti di tutta Italia, ma per l'efficienza del suo tempo pieno, tanto da essere materia di studio per l'abilitazione delle maestre italiane. Decenni fa, oggi è chiusa, ironicamente, in via Padania e nelle sue aule verranno costruiti 125 appartamenti per finanziare la nuova scuola. Qui, dove ci troviamo, poco lontano, la nuova futuristica scuola elementare, dove mamme e nonni esasperati ormai chiedono solo silenzio per i loro bambini. Avrà in mente il sindaco, deciderà il sindaco cosa fare. A me basta che i bambini vadano a scuola e stiano tranquilli, che ci lasciate un po' tranquilli tutti perché è uno stress allucinante. Se no cominciamo noi a rompere le scatole e a mandare via. Basta, non se ne può. Ma per voi se i simboli restassero lì, i bambini restano lì? Restano lì. Se i simboli devono restare lì, che qualcuno dice che devono stare lì, restano lì, basta. Siamo stufi di vedere. I bambini non lo sanno neanche che cos'è il bambino. Politica, sei ancora piccolo, mi sembra 8 anni di mettermi a spiegare, cioè la Lega deciderà lui da grande da che parte stare, quindi è stato tutto esasperato e adesso ne paghiamo le conseguenze. Facciano quello che vogliono. Queste le voci raccolte da te, Anna, e tra l'altro c'è anche un supplemento di storia che riguarda tutt'altra vicenda e che potrebbe riaprirsi tra qualche giorno. Sì, davvero un'altra dolorosa ferita, perché della scuola di Adro abbiamo cominciato a parlare in realtà la primavera scorsa, quando per far quadrare i conti della mensa scolastico, almeno così si disse dall'amministrazione comunale, alcuni bambini non fu dato il pasto, ma fu data solo pane e acqua. Ebbene, dalla prossima settimana i bambini delle elementari qui torneranno in classe il pomeriggio e dunque riaprirà la mensa. Per evitare che qualcuno non paghi, il sistema in questi mesi è stato cambiato, non più un conto da saldare a fine mese, ma si dovranno comprare in anticipo i buoni pasto. Un'associazione sta raccogliendo soldi per le famiglie che non possono permettersi la spesa, ma chi deciderà a chi saranno destinati? I soldi basteranno? Il rischio, insomma, qui sono ancora altre polemiche, bambini sempre più frastornati e un paese, come dicevamo, stanco e sempre più diviso. Bene, grazie. Allora ci fermiamo qua e la salutiamo, la nostra inviata Anna Migliorati da Adro. Italia in controluce. Facciamo qualche passo indietro alla settimana scorsa. L'episodio è stranoto, la smitragliata e l'inseguimento del peschereccio siciliano Ariete da parte di una motovedetta della finanza italiana, data recentemente in base ad alcuni accordi alla Marina Libica. Su quell'episodio si sono dette molte cose sui rapporti tra Italia e Libia, eppure, a quel che siamo in grado di ricostruire sullo sfondo, c'è un'altra storia, forse meno nota e discussa. È la guerra del pesce. Ce la racconta Raffaella Calandra. È toccato arrivato all'Ariete. Prima era stata la volta del Luna Rossa e prima ancora, sotto la minaccia delle armi, altre barche erano state sequestrate e i loro equipaggi arrestati. Nel cuore del Mediterraneo si sta combattendo da mesi una guerra con armi e prigionieri, una guerra del pesce consumata quasi sempre nel silenzio delle onde, una battaglia tra i pescatori siciliani e le motovedette libiche nel dietro le quinte dei rapporti sempre più stretti tra Roma e Tripoli. Una battaglia che si combatte in 60 miglia, quelle che il colonnello ha unilateralmente annesso ai propri territori e che i pescatori, ammette il comandante del Luna Rossa, non riconoscono come legge. Eravamo in navigazione in trasferimento per cambiare una zona di pesca. A un certo punto abbiamo avvistato una motovedetta, si è affiancata a noi e ha iniziato subito a spararci. All'incirca ci hanno fatto un'ottantina di buchi. A me nel 96 mi hanno confiscato un peschereccio libici. Io sono rimasto 6 mesi in galera in Libia. Per me le leggi internazionali sono 12 miglia dalla costa. Ne ricorda bene quelle prigioni Domenico Asaro, il comandante del Luna Rossa, e la sua voce è piena di rabbia come quella di tutti i pescatori di Mazara del Vallo, perché la pesca in quel tratto di mare, stima il direttore generale di Federpesca, Luigi Gianni, è il 40% del fatturato medio di ogni barca. In ballo c'è soprattutto la pesca del pregiato gambero rosso, spiega Asaro. È più pescoso perché giustamente pescherecci loro non ne hanno. Noi adesso lavoriamo a profondità di 700 metri, 800 metri, non erano mari pescosi, erano tutti sporchi. Noi pian piano, con la pazienza, abbiamo pulito, perché poi noi facciamo la pesca a gambero rosso. Il gambero rosso è un tipo di gambero molto pulito, molto selezionato. Oltre alla Libia, anche in Spagna e Algeria ci sono acque off limits, ma non si registrano casi di violenza, mentre Luna Rossa e ora l'Ariete sono solo le ultime imbarcazioni finite nel mirino dei libici, ricorda Francesco Mezzapelle dal distretto di pesca di Mazara. Prima del caso della vicenda dell'Ariete, vi è stata la vicenda del Luna Rossa, mitragliato per circa 6 ore, sempre nello stesso tratto di mare. Ci sono stati sequestri vari in questi anni, quello più clamoroso di 3 pescherecci sequestrati il 10 giugno sempre di quest'anno e poi liberati dopo 3-4 giorni a seguito di una visita di Berlusconi a Tripoli. E nel frattempo l'equipaggio che era a bordo dei pescherecci era trattenuto in Libia? Sì, era trattenuto nel porto militare. Una lista di casi che fa alzare la voce al direttore del distretto della pesca di Mazara, Giuseppe Tumbiolo. È andato anche a Roma lui a chiedere l'applicazione del trattato di amicizia sulla pesca. L'articolo 17 del trattato di cooperazione e amicizia firmato a Bengasi nell'agosto del 2008 prevede espressamente gli accordi in materia di pesca. Sono passati 2 anni, l'Italia è stata attenta ad altri aspetti. Diciamo che la pesca è stata trascurata e non è più il momento di farlo perché gli animi si stanno surriscaldando. Il rischio che ci possa essere una vittima. Auguriamoci. Italia in controluce. E adesso ci spostiamo a Roma, dove la cronaca di ieri ci parla di 11 arresti per truffa, estorsione, riciclaggio e i giornali tornano a scrivere titoli sulla banda della Magliana. Ma è davvero così? Monica Ceravolo. Stica bravi tutti. 50 milioni a testa, quello che avanza lo mettiamo da parte. Invece da pesce poco, in tanti, c'èmo tanto, insieme. Questa è un'ottima base, eh? Sta base ci serve per far che? Per piacere quello che se vogliamo piacere a tutti. Che se vogliamo piacere a tutti? Roma. Cos'è rimasto di quel progetto del sogno di dominare Roma di cui parlava alla fine degli anni 70 un gruppo di criminali, non un gruppo qualunque, ma quelli che sarebbero stati etichettati come Banda della Magliana? Volevano mettere le mani sugli affari illeciti della capitale e ci sono riusciti. Per un periodo sono stati i re di Roma, traffico di stupefacenti, usura, rapimenti, omicidi, che vuol dire avere potere di vita di morte. Poi la banda si è sgretolata, cancellata da cupidigia, invidia, pentimenti, arresti e omicidi. In quel gruppo iniziale, quel gruppo calamitato attorno ai due perni della banda, Franco Giuseppucci, Ernegro e Maurizio Abbatino, Crispino, non c'è più. Ma spesso si torna a parlare del ritorno della Banda della Magliana. Lo si fa a torto o a ragione? Noi lo chiediamo a Lucia Lotti, un magistrato massimo esperto sull'argomento, per essere stata alla Procura di Roma nel periodo in cui si sono strette le maglie attorno agli ultimi personaggi della banda. Rimane il modus operandi, talora riemergono anche alcuni soggetti, però con la precisazione che si è trattato parlato di un'esperienza di un'organizzazione niente affatto rigida, molto forte, ma niente affatto rigida nel metodo e nell'approccio. Forse questa era la forza. Esatto, un modo di condurre le attività criminali molto fluido, molto libero, diciamo così, tra virgolette, molto destrutturato, ma secondo una logica dal punto di vista imprenditoriale molto intelligente. Questi due momenti, gli anni 70 e oggi, sono legati da una catena, ogni maglia a un fatto o un personaggio, a garanzia della continuità. Uno di questi personaggi è Massimiliano Avesani. È una figura importante, diciamo che è uscita anche in altre attività di indagini, che è caratterizzata proprio da questa capacità di proporsi come in termini affaristici nel narcotraffico, e l'attività di indagine che lo ha riguardato ha evidenziato come si trattasse di persona abituata a viaggiare continuamente in ogni ambito, in diversi paesi, proprio anche per ovviamente sfuggire alle attività investigative. Quindi ancora una volta abbiamo un prototipo di operatività criminale estremamente scaltro, estremamente fluido, estremamente aperto nel fare affari, nel proporre, nell'aggregare realtà criminali anche diverse. La banda della Magliana si è conquistata spazio a suon di proiettili e botte. Nel tempo si è continuato a sparare. Uno degli ultimi a cadere sotto i colpi dei sicari è stato Umberto Morzilli, Umbertino il meccanico, ucciso il 29 febbraio 2008. Dalle indagini sull'assassinio ha preso le mosse l'ultima inchiesta coordinata dalla DDA romana, che si è conclusa nelle scorse ore. In 11 sono finiti in carcere per truffa, usura e riciclaggio, le stesse attività amate dalla banda. Gli inquirenti affermano: sopra di loro, agli arrestati, c'è un altro livello, quello che tira le fila, che comanda. Ed è la storia che si ripete. È tutto per Italia in Controluce, un programma con il coordinamento di Daniele Biacchessi. Scriveteci controluce@radio24.it. A me non resta che salutarvi da Alessio Maurizio in studio e Filippo Aureggi in regia. Buona giornata.